Ad alta voce, Paolo Piero Bon legge Il fondo della bottiglia di Georges Simenon, traduzione di Francesca Scala. Squillò il telefono. Era strano che non avesse squillato prima. Nora si alzò, andò nel living room e da lì si sentì la sua voce. Sì, pronto? Ma sì, Lil. No, non me l'ha ancora detto. Ci siamo fatti un paio di uova al bacon. Certo, è una buona idea. Come? Pronto, non capisco. No, non me ne ha parlato. È un po' musone stamattina. Sì. Davvero? No, non ho avuto questa impressione. No, ma sì, è assolutamente normale. PM arrossì e suo malgrado lanciò uno sguardo pieno di rabbia al fratello che continuava a mangiare. Aveva capito. Accidenti, era mai possibile che la piccola signora Noland fosse così eccitata da telefonare subito a Nora per parlarle di quello che lui le aveva appena confidato? Glielo dico subito, ad ogni modo veniamo e poi ci trasferiamo tutti qui. Ma sì, certo, devo solo trovare la forza di vestirmi. A fra poco, tornò dicendo. Era Lil, come se PM non lo sapesse già. Guardava i due uomini con l'espressione che assumeva quando si credeva molto acuta, con un lieve sorriso ironico all'angolo della bocca. Prima di una settimana non si potrà passare. È possibile. È sicuro. Raoul col suo cavallo è stato l'ultimo a passare. Di colpo Donald alzò la testa. Qualcuno ha attraversato il fiume? La cosa incredibile era che fissava il fratello come se pretendesse da lui delle spiegazioni. E Nora lo notò. Così come notò che PM, nonostante gli sforzi per nasconderlo, era in imbarazzo e aveva quasi un'aria da colpevole. A cavallo! Ed è l'unico che è riuscito a passare stamattina. Raoul, che è nato qui e che conosce il Santa Cruz meglio di chiunque altro, ha esitato per un quarto d'ora buono. L'ho visto con i miei occhi. Se non fosse passato, non ci sarebbe stato nessuno in grado di occuparsi del bestiame dei Pemberton. E cosa impedisce di attraversare il fiume nell'altro senso? Innanzitutto il fatto che il livello dell'acqua continua a crescere. Chi era il colpevole alla fin fine? Lui o Donald? I ruoli si erano invertiti. Sei sicuro? Ma certo, e poi è più difficile attraversarlo nell'altro senso perché di là la riva è scoscesa e il cavallo non avrebbe nessuna possibilità di risalirla con l'acqua che gli arriva a metà pancia. Ha fretta di lasciarci? Disse Nora. Nello sguardo con cui fissava il marito balenò una punta di ironia che lui afferrò subito. Era convinta che fosse geloso. In fondo, forse, lo aveva pensato anche Lil Noland quando le aveva raccontato quella storiella. Erano due stupide. Geloso di chi, santi Dio? Del fratello? Di quel fallito di Donald che si era ridotto a sposare Mildred, che era appena evaso dal penitenziario di Joliet e che rischiava di essere riacciuffato da un momento all'altro? Gli ho dato una delle tue camicie, dovrai prestargli dei vestiti. Geloso. Non erano state capaci di pensare ad altro. E tutto questo solo perché Donald aveva l'aria triste. Le va una birra, Eric? PM la guardò furente. Ieri sera ti ho detto... Ah, sì, scusa. A quanto pare le hanno proibito di toccare l'alcol. Non le dispiace se io bevo una birra, vero? Dopo una notte in bianco non c'è niente di meglio per rimettere in sesto lo stomaco. Fra parentesi, non capisco perché PM mi fissi con quegli occhiacci dal momento che di solito fa esattamente lo stesso. Erano sempre in cucina, dove mangiavano solo di domenica, quando non c'era nessuno che servisse in tavola. Nora si alzò e si versò da bere, poi fece scorrere l'acqua calda nel lavello. Con uno scatto anche Donald si alzò. Lasci, faccio io. Ma no, ci siamo abituati. Anch'io. Donald avrebbe finito per tradirsi. Evidentemente non aveva donne di servizio. Forse, prima del fattaccio, aiutava Mildred a pulire casa. Nora era abbastanza intelligente da insospettirsi e se solo avesse trovato il bandolo della matassa, chissà a quale conclusione sarebbe giunta. We'll be right back. sposato? Nora aveva notato che non portava la fede. Forse era stato costretto a venderla. Sì, sono sposato e ho 3 figli. Abita lontano? Per qualche misterioso motivo, forse per paura che Donald dicesse qualcosa di sbagliato, PM sentì il bisogno di rispondere «Nell'Ohio». Avevano cominciato a lavare i piatti senza di lui e di tanto in tanto Nora gli lanciava uno sguardo canzonatorio. «Che strano», diceva. «In certi momenti ho la sensazione di conoscerla da una vita. Non l'ho offesa, vero? Mi chiedo se non ci siamo mai incontrati prima. Ha per caso vissuto a Los Angeles?» Un tempo, col suo primo marito, lei trascorreva a Los Angeles diversi mesi all'anno. «Mai. Ci sono stato solo di passaggio. Magari è capitato in quell'occasione. È successo 15 giorni fa. Allora no. Forse lei mi ricorda semplicemente qualcuno. Lo stava facendo apposta. Aveva già colto la somiglianza che c'era fra lui e PM. Erano più o meno alti uguali e avevano la stessa corporatura. Ma tutto ciò che nel maggiore era sempre stato morbido e adesso si era come arrotondato, in Donald era invece spigoloso e duro. In compenso, la sicurezza, a volte esagerata o inquieta, che si leggeva nello sguardo di PM, si trasformava in candore o ingenuità nell'altro. Donald aveva gli occhi più chiari e spesso il suo sguardo si perdeva nel vuoto. «Preferisco lavare io e che lei asciughi. Se permette, io preferisco il contrario». «Perché?» «Perché l'acqua sporca non mi dà fastidio, mentre alle donne fa ribrezzo». «Sentito, PM?» Aveva sentito e come. In genere, la domenica, era sempre Nora a lavare, mentre lui asciugava. Fra sua moglie e Donald si era già instaurata una sorta di complicità, una complicità in qualche modo rivolta contro di lui. E tra poco sarebbe successo lo stesso con Lil Noland. Erano entrambe ricche, l'una grazie al padre, l'altra grazie al primo marito. Sapevano di essere 2 donne intelligenti e indipendenti, soprattutto Nora. Probabilmente avevano entrambe l'impressione di essersi comprati i rispettivi mariti, anzi, in fondo, ne erano entrambe convinte. Eppure, bastava che capitasse loro a portata di mano un uomo di cui non sapevano nulla, ma che aveva l'aria triste, ed ecco che Nora si alzava presto, lavava i piatti, si mostrava allegra da un lato e aggressiva dall'altro, mentre Lil Noland, che di sicuro aveva invitato tutta la valle con l'unico scopo di assicurarsi la presenza di Donald, metteva da parte la sua consueta semplicità e si lanciava in un'opera di seduzione. PM aveva voglia di pronunciare quella frase con voce stridula, imitandole, imitando Mildred e tutte quelle oche. «All'aria triste, vero? Era solo un fallito, sì. Un debole, uno che non aveva saputo affrontare la vita di petto e assumersi onestamente, da uomo, le proprie responsabilità. PM, invece, se le era assunte. Avevano avuto la stessa madre, ed è vero che si ubriacava, che a volte il vecchio Ashbridge doveva chiuderla in stanza per diversi giorni, onde evitare che si scolasse le sue damigiane di whisky. Insomma, avevano lo stesso sangue e lo stesso handicap in partenza. Emily non si era mica messa a bere, altrimenti non sarebbe arrivata dove era arrivata. E lui, PM, in quella valle che aveva fama di essere il posto più allegro e movimentato di tutta l'Arizona, si prendeva la briga di scendere dallo sgabello del bar dopo il 3° bicchiere per andare a guardarsi allo specchio e decidere se poteva permettersi o no un ultimo doppio bourbon. Poi sì, certo, dopo, di tanto in tanto, gli capitava di andare a farsi un giro sulla collina, ma non ne aveva mai fatto pagare le conseguenze a nessuno. E se era vero che tornava da lì disgustato e quasi incapace di toccare il volante con le mani sudice, era anche vero che la cosa non riguardava altri che lui. Nora aveva detto: «Adesso Adesso ragazzi, andate a vestirvi. Ho promesso a Lil che vi avrei portato da lei entro un'ora. Aveva fatto anche un'altra cosa, che non aveva niente di straordinario in sé, ma che era pur sempre significativa. Nel momento in cui Donald stava per chiudere la porta della sua stanza, gli aveva gridato: «Aspetti!» Era corsa in camera ed era tornata con una stecca di sigarette in mano. Così non le toccherà chiederle. E poi, che cos'era successo? PM si era spogliato ed era entrato nella doccia. Non aveva la forza di farsi un bagno caldo. Il suo bagno e quello della stanza degli ospiti erano comunicanti. Quando aveva tirato la tenda della doccia, la porta, presumibilmente, era chiusa. Ma che senso aveva preoccuparsi di certi dettagli irrilevanti? In realtà era sempre stato incline a farlo, mai però fino a quel punto. La cosa importante, chissà poi se lo era davvero, è che a un bel momento si era ritrovato nel bagno Donald, completamente nudo, grondante d'acqua e avvolto in un gran telo blu con su ricamate le iniziali dell'MM Ranch. Ed anche lui era nudo. In tre dei ranch della valle, fra cui quello dei Noland, c'era la piscina. Ci si riuniva lì a gruppetti. Da una parte si spogliavano gli uomini, dall'altra le donne. PM non aveva mai provato il minimo imbarazzo a stare nudo davanti agli amici. Stavolta, invece, si sentiva a disagio, come del resto la notte prima, quando il fratello si era svestito di fronte a lui. C'era un'altra cosa che gli dava fastidio, una cosa che ancora non aveva messo bene a fuoco, ma che pure lo irritava: il fatto che non gli lasciassero la possibilità di prendere alcuna iniziativa. Quando era tornato dal fiume, aveva trovato Donald e Nora in cucina, in un atteggiamento molto confidenziale. Nora chiamava già l'ospite per nome, o meglio, con quello che credeva fosse il suo vero nome. A colazione lo aveva pronunciato almeno una decina di volte. «Venga, Eric, andiamo a lavare i piatti», mentre PM ascolta il giornale radio. «Se non sente le ultime notizie, sta male». Si era ripromesso di andare a parlare con Donald, di andarci quando lo avesse deciso lui, dopo aver fatto la doccia, per esempio, dopo essersi infilato un paio di pantaloni e una camicia. E invece, adesso, era Donald che si presentava nel suo bagno con la massima disinvoltura. Non era andato lì a parlargli della sua situazione, di Mildred che lo aspettava a Nogales dall'altra parte della frontiera. Guardava con occhio critico il corpo del fratello maggiore, come se per un attimo il resto non contasse nulla. «Non fai molto esercizio fisico. Con il mio lavoro non ho tempo. Stai bene?» «In che senso?» «Mi riferisco alla salute. Alla tua età di solito cominciano gli acciacchi. L'ultima volta che mi sono fatto visitare è stato 2 mesi fa, a parte qualche problemino al fegato di tanto in tanto. Emily invece è in splendida forma». PM era rimasto senza fiato. Subito dopo l'evasione, Donald era andato dalla sorella, con la polizia alle calcagna e correndo il rischio di metterla nei guai. E ora ne parlava come se si fosse trattato di una banale visita di cortesia. Di sicuro l'aveva studiata come adesso stava studiando lui, con lo stesso implacabile occhio indagatore. «Come facevi ad avere il suo indirizzo?» «Non ha mai smesso di scrivere a Mildred e i primi tempi è stata lei ad aiutarla». PM preferì distogliere lo sguardo. Non si era mai preoccupato di sapere come stessero la moglie e i figli del fratello. Anzi, non sarebbe stato neppure in grado di dire con precisione che fine avesse fatto quest'ultimo. Probabilmente Donald si immaginava che PM fosse al corrente di tutto, tanto è vero che non accennava mai alla cosa fondamentale, a quanto era accaduto a Rock Island. PM, dal canto suo, preferiva non fare domande. Da allora erano passati poco più di 2 anni. PM e Nora avevano trascorso diverse settimane a New York, dove Nora doveva sistemare una complicata questione ereditaria. Erano sposati da pochissimo tempo, alloggiavano in un grande albergo di Park Avenue. Conducevano una vita molto movimentata. Di giorno gli affari, poi i cocktail, le cene, il teatro e i locali notturni. Era stato in quell'atmosfera che una mattina PM aveva letto sul giornale che in un night di Rock Island, nell'Illinois, c'era stata una rapina. Erano solo poche righe. Le aveva lette perché a separare Rock Island da Davenport, dove lui aveva vissuto per parecchi anni, c'era solo il Mississippi. Conosceva anche il posto in cui era successo il fatto. Finora la polizia ha arrestato solo un certo Donald Ashbridge, che ha opposto una viva resistenza a uno degli agenti, ferendolo gravemente. L'uomo era in stato di ebbrezza. Ecco come, dopo tanti anni, aveva avuto notizia del fratello. Ovviamente non ne aveva parlato a Nora. I giorni successivi aveva cercato invano altri dettagli della vicenda sui quotidiani. Poi con la moglie aveva trascorso una settimana a Miami, dopodiché erano tornati a Tucson e infine al ranch. I giornali dell'Arizona non menzionavano neppure di sfuggita un episodio successo all'altro capo degli Stati Uniti. Che cosa avrebbe dovuto fare? Era sposato da meno di un anno. Era appena diventato socio a Nogales di Reeves, un ex attorney che gli stava portando tutta la clientela della valle. Chissà se a Donald sarebbe stato utile vederlo arrivare a Rock Island dicendo: «Sono suo fratello, sono un avvocato e sono qui per assumere la sua difesa». Fra l'altro, in quel periodo, a dirla tutta, lui stesso aveva qualche difficoltà economica perché, per diventare socio di Reeves, aveva dovuto versare una grossa somma e non voleva chiedere aiuto a Nora.